essere un barbone per dormire alla stazione. Non vi è poi così strano come andarsene via lontano. Mio padre, mia nonna, il mio nuovo coinquilino, coinquilino. Oh yeah, coinquilino. Dicon che se non mi trascuro e mi lavo il mattino brillerà. Vorrei essere un barbone, abitare sotto ai ponti dove crescono canzoni sopra la marea dei fiumi. E se non hai un lavoro metti un'inserzione, oh yeah, inserzione. Che se ti radi bene il cuore qualcuno il suo ti darà. Sui binari sotto il mare.